Focus Economia di Sebastiano Barisoni. :17 inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Intanto vi do subito un aggiornamento dalla borsa che ha recuperato qualcosa, -0,60%, sempre sopra 20.000 punti. Milano, Parigi -0,20%, Francoforte -0,70%. Londra -0,66%. Devo dire che di nuovo è forte Ferrari, oggi complice anche la vittoria a Gran Premio, +2,60%, Telecom +1%, ricordati +1%, Terna +0,90%, poco mossi gli altri titoli quanto a rialzi. Invece cede Buzzi Unicem il 3,70%, ST Microelectronics il 3%, Case New Holland, CNH Industrial -2,80%, Tenaris -2,5%, Biper Bank -1,80%, come sai, per me il banco BPM, Unicredit cede l'1,70%, Unipol 1,5% di flessione come Salvatore Ferragamo. Faccio notare che l'euro oggi è un po' in rafforzamento, 1,0880 verso quota 1,09. Parleremo come sempre di borsa, ma parleremo anche di banche sul doppio fronte. Alcune novità sul Monte dei Paschi di Siena, dall'altro c'è la vicenda San Marino, vi arriveremo, ma c'è anche un articolo del Sole 24 Ore nel fine settimana dove si va a guardare sulle banche più piccole, anche qui senza creare allarmismi, il cosiddetto Texas Ratio, ossia un parametro di carattere patrimoniale in cui si va a vedere quant'è il peso degli NPL, dei non performing loans, delle sofferenze bancarie nette rispetto al patrimonio netto tangibile di una banca. Ora, ripeto, senza creare allarmismi, ma riprendendo l'analisi fatta dall'ufficio studi di Mediobanca, il Sole 24 Ore, ne parleremo, fa notare come vi siano ben 114 istituti di credito, praticamente uno su cinque, in cui il peso dei crediti malati e delle sofferenze è tale da accendere un semaforo rosso. Sono 114 banche, per lo più sono BCC, banche di credito cooperativo e casse rurali, in cui appunto c'è un superamento del Texas Ratio. Di questo parleremo perché sarà appunto l'occasione per rifare il punto su un insieme di fronti aperti. Ripeto, Monte dei Paschi, anche le dichiarazioni oggi di Daniel Nui, le vicende che riguardano San Marino e anche le banche minori. E poi il tema dell'Obamacare, perché le borse negative, stando a tutte le dichiarazioni di questa mattina, erano negative anche, ed è il motivo per cui l'euro si è leggermente rafforzato nei confronti del dollaro, perché Donald Trump è stato costretto a ritirare la proposta di riforma sanitaria repubblicana, quella che doveva sostituire l'Obamacare. Questo viene letto dai mercati come primo passo falso, il primo intoppo, la prima forma di debolezza di Trump, che voleva chiudere prima la pausa pasquale, pur sapendo di avere 30 deputati contro e una quindicina di deputati repubblicani, infatti si parla di fronda repubblicana, orientati per il no. Una riforma, poi ce ne occuperemo, bocciata subito da un organismo bipartisan del Congresso, si chiama Congressional Budget Office, perché con la riforma di Trump 24 milioni di americani avrebbero perso la copertura sanitaria, portando così a 56 milioni il totale di persone senza un'assicurazione al 2026, una cifra che obiettivamente da noi sembra una cifra enorme, così incredibile e inimmaginabile. Comunque, parleremo anche di questo, per il contraccolpo che ha avuto sul rapporto molto delicato che c'è sempre nell'amministrazione americana tra potere del presidente e però maggioranza al Congresso. In questo caso, appunto, la variabile determinante è stata la fronda di questi 30-35 deputati del Partito Repubblicano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Oh. E tra l'altro chi me lo chiede non ha bruciato tutti i guadagni post vittoria di Trump, ma certo che il rapporto euro su dollaro, se andiamo verso quota 1,0911, si sta riportando sui livelli pre-vittoria elettorale di Trump. Nelle ultime settimane, infatti, non è da oggi, è già alcuni giorni che noi notiamo un leggero rafforzamento rispetto a quota 1,04-1,05 verso quota 1,1 nei rapporti tra euro e dollaro. E tra l'altro sull'andamento delle borse e delle valute dopo il ritiro dalla riforma sanitaria si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 ore Alessandro Paterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Tutti si chiedono in questo momento se sia arrivato il momento di ritirare i soldi della borsa. È l'undicesima seduta consecutiva che le borse americane chiudono in perdita, trascinandosi sostanzialmente dietro tutto il resto del mondo. Ma che cosa succede? Gran parte dei giornali, dei quotidiani politici e finanziari internazionali titola dicendo: è un po' il mercato è deluso da Trump, i dubbi sulla possibilità di attuare le sue riforme, ma in realtà il problema sembra molto, ma molto più semplice. Una crisi di idee da parte dei giornali e soprattutto da parte della borsa, che non sapendo che cosa dire, come spiegare il motivo per cui i titoli azionari sono saliti in pochi anni del 140%, addirittura tassi medi del 20% l'anno a partire degli ultimi 9 anni, come possono spiegare, quali altri motivi possono spingere la borsa a rialzo. Dalla stessa inaugurazione di Trump il mercato è salito del 10%, massimo toccato nel marzo 2017, e apparentemente la nuova politica della Federal Reserve, cioè rialzare i tassi, e la stretta che si profila anche in Europa, hanno tolto un po' quella voglia di ridere ai mercati finanziari, ma accusare la politica serve a poco. Per la borsa americana, che di politica si è sempre interessata ben poco, occupandosi più che altro di utili aziendali e di passo dell'economia, in questo senso non si sa che attribuire un motivo per correggere questo cammino. È facile aspettarsi che ci sia una correzione, diciamo anche finalmente, di almeno il 10% rispetto ai livelli attuali, perché altrimenti con la borsa non si sa quali altri calcoli possono essere fatti. Anche la borsa vive delle stesse regole con cui vive il mondo. Tutto ciò che sale prima o poi deve scendere, e in questo senso probabilmente è arrivato il momento della correzione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, restiamo in tema di borsa e banche. Da un lato segnalo come dalla Gran Bretagna arrivi da un lato la dichiarazione della premier britannica Theresa May, che dice insieme, si riferisce alla Scozia, Inghilterra e Scozia insieme sono una forza inarrestabile, il premier difende l'unità del Regno Unito. In settimane partirà intanto l'avvio del divorzio dall'Unione Europea. Ora la Bank of England, la banca centrale britannica, sta preparando gli stress test per le banche britanniche al fine di testare la loro capacità di resistere, ipotizzando uno scenario da incubo innescato dalla Brexit. Lo scenario, infatti, è in questi casi, negli stress test si usa lo scenario peggiore, prevede il crollo della sterlina contro il dollaro, una forte recessione, un'inflazione fuori controllo. I risultati saranno pubblicati a novembre dalla Bank of England. E sempre in merito alla Brexit, la Banca Centrale Europea lancia oggi un avvertimento perché il negoziato verte anche sulla possibilità delle banche di continuare, che sono nella City di Londra, di continuare a operare nell'area euro. Allora, dice la Banca Centrale Europea, una hard Brexit, cioè un'uscita dura dalla Gran Bretagna, significherebbe per le banche inglesi non avere più il passaporto dell'Unione Europea. Non dipende da noi, è una questione politica, aggiunge la BCE. Decidere i termini del negoziato del divorzio fra Gran Bretagna e Unione Europea. La BCE darà licenze soltanto alle banche ben capitalizzate e ben gestite, non le daremo a scatole vuote nel caso qualcuno voglia immaginare una filiale puramente di facciata in Europa per permettere alla banca che poi opera dalla City di sembrare ancora europea. Per quello che riguarda sempre la BCE, il responsabile della vigilanza Daniel Nui ha detto invece, e qui il riferimento ai crediti in sofferenza, i non performing loans, sono ancora un grosso problema in alcune banche. Per le due banche venete in attesa di salvataggio, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, la palla è nelle mani della Commissione Europea. È chiaro che hanno chiesto una ricapitalizzazione precauzionale, stiamo già scambiando informazioni con la Commissione, il piano include la possibilità di una fusione. E dopo la ricapitalizzazione precauzionale, in questo contesto c'è un piano che potrebbe essere discusso e che potrebbe includere iniziative private. Poi sul Monte dei Paschi dice, è chiaro che Monte dei Paschi è una banca solvibile, ed è positivo non avere scadenze di fatto. La cosa positiva di non avere una scadenza è il fatto di non avere una scadenza, così appunto la commissaria dell'Unione Europea alla concorrenza, in questo caso infatti era la Vestager che parlava. Veniamo all'Italia, così introduco anche il primo tema che è in parte all'Italia ma non solo, in parte anche le politiche economiche. Allora, la manovra correttiva da 3 miliardi e mezzo, quella richiesta dall'Europa, 3 miliardi e 400 milioni, conterrà anche politiche, anche misure pro crescita, a partire da un pacchetto di interventi a favore dell'economia delle aree terremotate. Il valore di questa iniziativa dovrebbe stare intorno al miliardo di euro, quindi un terzo, un poco meno di un terzo dell'intera manovra correttiva. Ci sono oggi Gentiloni, il premier Gentiloni ha detto, incontrando le regioni a Palazzo Chigi, ci sono norme e vincoli europei che non dobbiamo dare per intoccabili, c'è un margine di negoziato, certamente da qui all'autunno la discussione con Bruxelles sarà aperta e potrà produrre risultati. E poi la richiesta tra virgolette che arriva dalla Confindustria sul documento economico finanziario, oggi il presidente Confindustria Boccia ha chiesto di continuare sulla strada di un intervento organico di politica economica, facendo una manovra che abbia una grande attenzione verso le imprese e partendo dalla politica dell'offerta. Lo ha detto intervenendo a un forum di Unicredit a Napoli. E poi ha continuato il presidente Confindustria Boccia: la vera questione non sono i 3,4 miliardi della manovrina, ma se possiamo costruire nel paese un progetto di inclusione dei giovani nel lavoro e nelle fabbriche, e pensare di ridurre o di azzerare il cuneo fiscale per loro, cioè per chi, per i neoassunti, includendo chi è fuori dal lavoro e non aiutando solo chi è dentro. Possiamo costruire nel paese un grande progetto di inclusione dei giovani nel lavoro e nelle fabbriche e pensare di ridurre e di azzerare il cuneo fiscale per i giovani, includendo chi è fuori dal lavoro e non, come dire, aiutando solo chi è dentro. Possiamo costruire una grande stagione di reazione dell'economia in chiave italiana e in chiave europea. Queste sono domande non da poco e chiaramente per questo non ci sono importi da 3 miliardi, ma ci sono importi, come dire, da svariati miliardi che non riguardano la manovra, ma riguardano il futuro della questione italiana e della questione europea in chiave economica. E sul fronte delle imprese segnalo che oggi a livello di Assolombarda, la più importante delle territoriali di Confindustria, è nata Italia Meccatronica, che detto così sembra una cosa un po' tecnica, no, è un'evoluzione della metalmeccanica, una delle quattro gambe del nostro export, della nostra produzione industriale, e in cui ancora abbiamo delle quote importantissime sia come fornitori che come subfornitori di grandi gruppi. Comunque la meccatronica come evoluzione della metalmeccanica, perché? Perché mette assieme la meccanica industriale più classica con l'informatica e l'elettronica. La meccanica industriale da sola in Italia occupa 1.600.000 addetti e genera l'80% della produzione ad alta e media tecnologia, alta e medio alta tecnologia in questo paese, con una cifra di esportazioni incredibile, 200 miliardi di euro esportati, la produzione in aumento del 2,4%, quindi i segnali sono più che buoni. E il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, ha chiarito perché nasca, diciamo, un progetto che mette assieme, diciamo, meccanica classica, quindi metalmeccanica classica, assieme a elettronica e informatica. La meccanica pesa l'8% del PIL, 50% delle esportazioni e grazie alla meccanica la bilancia commerciale del nostro paese è in attivo. Se non ci fosse la meccanica la bilancia commerciale dell'Italia sarebbe negativa, quindi non potremmo importare né prodotti energetici né materie prime, non potremmo accendere il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata d'estate. E in questo settore c'è anche fame, diciamo, di lavoro, di professionalità e possibilità di sviluppo e di impiego anche per i giovani? Ma guardi, la fabbrica intelligente senza la competenza, le conoscenze delle persone non potrà mai essere tale e quindi dobbiamo investire molto sulla formazione per creare quei nuovi saperi che saranno necessari domani. Oggi vedremo che ci sono degli studenti interessati anche che hanno partecipato a questo progetto. Ecco, un rapporto sempre più stretto e diretto tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa è quello che serve e l'alternanza è uno di questi strumenti in cui Federmeccanica crede moltissimo. Noi abbiamo lanciato nel 2014 con il MIUR, un progetto molto interessante che poi è stato recepito da Buona Scuola, Trainship, che vede oggi, siamo alla fine del primo anno, una grande partecipazione e un grande coinvolgimento. Quale potenzialità ha Industria 4.0 per il settore? Il nostro settore, come tutti i settori, sarà condizionato da 4.0. La fabbrica del domani sarà una fabbrica intelligente, interconnessa e quindi cambierà il modo di fare impresa, il modo di lavorare anche. Ed è questo quello che noi già oggi sappiamo e dobbiamo oggi avviare quest'opera di ricostruzione. Allora, da qui vorrei partire dalla richiesta di una politica industriale moderna e contemporanea, quindi non fatta di cattedra in deserto, ma di agevolazioni anche di carattere fiscale. Il riferimento era molto esplicito da parte del presidente Confindustria Boccia al cuneo fiscale e anche a quello che si sta muovendo, diciamo, nel tentativo di fare questo salto Industria 4.0. Molte volte ne abbiamo parlato. Spero che non sia troppo pindarico il volo, ma di volo dovrò parlare, visto che parleremo anche di Alitalia, perché in tutto questo la vicenda di Alitalia continua a segnare profondissime difficoltà. Poco fa ha parlato il ministro Poletti, ha detto è una situazione molto difficile dopo aver incontrato le parti sociali. È una situazione molto difficile e tutte le situazioni molto difficili vanno trattate con grande attenzione e impegno. Lavoreremo intensamente nei prossimi giorni, sempre su Alitalia. Il futuro presidente esecutivo della compagnia, Luigi Gubitosi, ha detto non è vero che noi diciamo che il costo del lavoro è il solo problema di Alitalia, ma è uno dei problemi. Allora, cerchiamo di tenere tutto quanto assieme e lo faccio e lo ringrazio con l'economista, insegna economia internazionale all'Università di Torino, Mario De Aglio. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Adesso andrei sul metodo pubblicità, poi vorrei partire dal ragionamento più complessivo di quello che le parti, in questo caso Confindustria, ma il mondo delle imprese, segnala al governo, un governo che deve mettere in piedi un documento economico finanziario, un DEF, al di là della manovrina da 3,4 miliardi, un DEF che, inutile girarci attorno, rischia di essere, forse un eufemismo, di sentire molto il peso della stagione elettorale. E noi sappiamo che quando si fanno manovre economiche sotto il peso della stagione elettorale di solito non sono sempre manovre di breve respiro, speriamo che non sia così, ma nel passato lo è stato spesso. E invece che cosa servirebbe, visto che molti hanno elogiato comunque l'intervento del governo sul tema dell'industria 4.0, perché dà agevolazioni fiscali reali, 140% superammortamento, 240% iperammortamento, per spingere le imprese a fare quel salto che si chiama digitalizzazione e che non è solo retorica e che non è solo mettere sul sito, mettere online il sito o scannerizzare la brochure, per dirla con una battuta, vuol dire attuare processi di informatizzazione dentro la fabbrica, sia nella fase di processo che nella fase di prodotto. Che DEF si immagina o dovrebbe essere quello che il governo inizierà a valutare? La risposta, cortesemente, De Aglio, dopo il meteo e la pubblicità. E poi passiamo dall'Italia, perché lei ne scrive e ha addirittura un progetto di sdoppiare la compagnia di bandiera. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor De Aglio, partiamo dalla, non tanto dalla manovrina, ma dal DEF. C'è già un po' di preoccupazione. Prima preoccupazione, in questo caso parlo per esperienza, il fatto che possa essere una manovra economica e comunque un documento programmatico di manovra molto molto sensibile al periodo elettorale. Temo di sì, i precedenti vanno tutti in quella direzione, qualunque siano le forze politiche non si riesce a spostare il dibattito al di là di questo ricorso alle urne, che non sappiamo nemmeno bene quando sarà. L'idea di recuperare ampi orizzonti, una forza politica o tutte le forze politiche che spieghino al Paese come vedono questo Paese di qui a 5 anni, 10 anni, 15 anni e cosa si può fare per realizzare la loro visione, tutto questo manca completamente in Italia. Anche se c'è chi dice che insomma Industria 4.0, al di là dei nominalismi, che poi ripeto il nome fu lanciato in Germania, per dare il segnale di una quarta rivoluzione industriale, non semplicemente di una crisi da cui uscire, ma di un passaggio, un cambio di paradigma. Però diciamo, Industria 4.0, a mio avviso, mostra cosa dovrebbe essere una politica industriale moderna, cioè non dire tu produci l'acciaio lì e capito, il calcestruzzo da un'altra parte, ma rendere le condizioni, diciamo, di facilitare le condizioni dell'ambiente di impresa, agevolando chi investe. E allora mi ricollego. Secondo lei, visto che con Industria 4.0 andiamo a dare un grosso vantaggio a chi digitalizza le imprese, 140 e 240% superammortamento e iperammortamento, è pensabile un'operazione simile, riprendo le parole del Presidente del Confindustria Boccia, anche sull'occupazione, che poi resta il tema di fondo, cioè andare a ridurre o azzerare il cuneo fiscale, cioè dare indicazioni di politica economica e industriale in questo senso, non sui settori produttivi, su cosa deve fare un distretto, su cosa deve fare un settore, lasciare libere, diciamo, le iniziative ma agevolarle. Assolutamente va bene, cioè che si incentivino certi modi di produrre e non invece certi settori in cui produrre, questo è una cosa che deve essere fatta. Per quanto riguarda Industria 4.0, l'impressione mia è che chi ci arriva prima sarà favorito, e cioè l'industria appunto 4.0 ha, diciamo, a perimetro fermo, riduce l'occupazione. Non è inutile che ci giriamo sopra, ci sarà un'occupazione più qualificata, ma le fabbriche computerizzate richiederanno meno personale. Però se i tedeschi ci arrivano prima, avranno più fabbriche, perché prenderanno anche una quota delle nostre. Ecco perché dobbiamo arrivare anche noi. E qui vengo al successivo aspetto, poi arrivo al caso specifico dell'Italia. Mi sembra che tutti voi, qualcuno mi chiede, ma lancerete questi T-Talks? Sì, ci stiamo lavorando su paura o futuro o paura, per meglio dire, riflessioni, diciamo, sull'economia, sui mutamenti in corso. Però mi sembra che la maggior parte degli osservatori, lei incluso, a questo punto, siate molto scettici, per essere buoni, sulla capacità di sostituzione, cioè il tasso di sostituzione. Ok, meno operai e più digitalizzazione delle imprese, se però poi si creano società anche esterne che forniscono servizi, posso avere un tasso di sostituzione, un gioco a somma zero nell'occupazione. Mi sembra che invece voi siate tutti dell'idea che l'industria, la digitalizzazione non verrà sostituito l'occupato da una nuova figura professionale. Potranno esserci nuove figure professionali, ma la somma complessiva dei nuovi occupati è realisticamente inferiore alla somma complessiva dei nuovi disoccupati. Quindi bisogna trovare qualcosa in più. Bisogna inserire questa industria 4.0 in un contesto economico più vasto, dove accanto all'industria ci possono essere i servizi. Nessuno ha mai esplorato bene quali sono le conseguenze vere dell'industria 4.0. Per adesso sappiamo la parte distruttiva di lavori attuali e creativa di quelli nuovi, e sappiamo che è negativa, ma può darsi che questa piattaforma nuova dia possibilità a chi ha nuove idee, può darsi, ma nel mondo non lo sa nessuno e si dibatte troppo poco. E noi speriamo di dare un piccolissimo contributo anche a questo dibattito nelle prossime settimane. Professor De Aglio, però tornando alla manovra, mi rendo conto che dallo scenario, diciamo, delle trasformazioni in atto alla manovra economica, anche qui Pindaro è di casa, però Lei a quel punto che manovra potrebbe auspicarsi, visto che sappiamo che, tra l'altro, vedo nuove tensioni tra l'ex presidente del Consiglio Renzi, riportate da molti giornali, con l'attuale ministro dello sviluppo economico Calenda, insomma, con Padoan. Vabbè, speriamo che siano solo così eccessi giornalistici, perché non si capisce bene. Sapete che ho un debole per Calenda, un debole assolutamente, diciamo così, come ministro. Ci mancherebbe, però, insomma, mi sembra che per quello che abbiamo visto in questi anni non sia certo il peggiore dei ministri dello sviluppo economico. Ma al di là del mio giudizio personale, mancano solo, diciamo, le guerre interne all'attuale coalizione. Che manovra economica lei può attendersi o vorrebbe vedere, per meglio dire? Ma io vorrei vedere prima della manovra, diciamo, la strategia generale. E la strategia generale può essere questa: vanno bene tutti i cambiamenti purché ci sia il modo di salvaguardare i redditi di quelli che perdono il lavoro, che con i cambiamenti sono comunque molto, e di reinserirli nel circuito nuovo. Quindi ci deve essere un meccanismo di recupero e di compensazione che richiede soldi. Questi soldi da dove devono venire? Gran parte degli economisti dicono da quel circuito che non paga le tasse, cioè da tutto quel giro di profitti che paradisi fiscali, eccetera, spazi per il mondo, riescono ad avere una bassissima tassazione. Quindi anche le multinazionali che poi pagano dove meglio gli conviene. Esattamente, sappiamo benissimo che le multinazionali, soprattutto tecnologicamente più avanzate, sono anche più avanzate nell'elusione fiscale. Ah beh, sono molto vecchie per essere new economy in questo. Certo, in questo hanno dei buoni maestri già del passato. Ora però è necessario che per fare questo ci sia un coordinamento dei paesi, perché un paese da solo non riesce a farlo. Quindi la grossa cosa da proporre all'Europa è precisamente una specie di, chiamiamolo, fronte comune, se si vuole, nel dialogo che ci deve essere con le multinazionali, apprezzandone i vantaggi ma chiedendo che partecipino anche i costi. Allora, qualcuno mi scrive: quindi meno posti di lavoro e più immigrati. No, in realtà, se seguiamo questo ragionamento, i posti di lavoro saranno ancora... Allora, il dubbio e la paura è che non vi sia un tasso di sostituzione completo, per cui il lavoro perso per dirla male, ma insomma il lavoro perso in una fabbrica che viene digitalizzata non viene sostituito da una consulenza nei servizi, da una società che si occupa di altro. Poi è ovvio che fisicamente non potrà mai essere la stessa persona, ma l'importante a livello aggregato sarebbe che il tasso di sostituzione fosse il più vicino possibile al 100%. No, non vedo perché più immigrati, nel senso che se parliamo di industria 4.0, dell'industria della conoscenza, lì casomai il problema è che abbiamo pochi laureati, non la manodopera, diciamo così, non qualificata, per essere buoni. Però su questo, professor De Aglio, poi vengo all'Alitalia, perché insomma, in tutto questo si inseriscono anche crisi specifiche. Lei dice: trovare dei soldi per traghettare delle risorse finanziarie, per traghettare quella disoccupazione, sperando che sia pro tempore, e dare tempo che uno si ricicli e soprattutto si riformi. Ecco, oltre a dare tempo, dare anche il riciclaggio, cioè dare le nuove capacità professionali. Senta, però questo non va nella direzione di un reddito, cioè il reddito di cittadinanza, ci sono varie proposte, 5 Stelle, ma non va nella direzione di un forte sussidio alla disoccupazione a questo punto? Un sussidio che non è tanto un sussidio alla disoccupazione quanto un incentivo alla nuova occupazione, cioè io te lo do se tu segui una serie di tappe su un cammino professionale che ti porta a trovare un altro lavoro. Se soltanto per mantenerti in vita a spese della collettività, sì, la collettività poi si ferma. Allora, veniamo dall'Italia. Adesso ho capito benissimo, dottor Barisoni, non trasformi una trasmissione di speranza in un'istigazione al suicidio. No, ci mancherebbe. Infatti lo chiamiamo, il nome, il titolo ancora provvisorio, futuro o paura, nell'idea che se hai paura vivi solo il presente, se hai un po' di speranza riesci anche a delineare un futuro. Teresa Trillò sta seguendo chiaramente per Radio 24 l'incontro tecnico sindacati e azienda su Alitalia. Ho visto dichiarazioni del ministro Poletti non confortanti per ora, e anche del futuro presidente Gubitosi. Teresa, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, l'incontro qui al Ministero è iniziato alle 16. È un tavolo tecnico con aziende e sindacati, e ci sono anche i ministri, sia il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, sia Poletti, che però è andato via da una mezz'oretta. sul tavolo c'è il piano industriale dell'azienda che è stato approvato dal consiglio di amministrazione a metà marzo. Uh-huh. Un piano che prevede 2.000 esuberi e stipendi tagliati fino al 32% anche per gli assistenti di volo, ad esempio, oppure il 22% per i piloti. I sindacati hanno bocciato questo piano e hanno proclamato uno sciopero per il 5 aprile. E qui al Ministero si cerca un punto di incontro tra azienda e sindacati con la mediazione appunto del governo. Gubitosi ha detto, secondo le indiscrezioni che filtrano, che è necessario fare in fretta e che non è vero che il problema sia solo il posto del lavoro, cosa invece che preoccupa molto i sindacati. Il problema è che bisogna fare in fretta, esattamente, perché il dossier all'Italia è molto delicato. A metà aprile infatti potrebbe esaurirsi la liquidità della compagnia e il governo sta studiando da giorni come consentire un finanziamento di 200 milioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti attraverso la garanzia dello Stato. E ora qui al tavolo si affrontano appunto questi temi e si fa un calendario anche di incontri per tutta la settimana, ci saranno degli incontri serrati per cercare una soluzione. Quindi l'idea appunto di un che abbiamo già letto nel passato in questi giorni, scusatemi, di una 200 milioni di, una volta si sarebbe chiamato prestito ponte per dare, traghettare anche in questo caso l'azienda in assenza di liquidità. Faccio notare, nel ringraziare Teresa Trillò, che la situazione dell'Italia, già di per sé stessa situazione molto delicata, diventa ancora più delicata perché non sfugge a nessuno, ce lo stanno chiedendo molti ascoltatori, che migliaia di italiani abbiano già comprato i biglietti per l'estate, che adesso si va verso la bella stagione, che c'è un problema di flussi turistici verso l'Italia dall'estero, ma anche di italiani in Italia. Cioè, la cosa peggiore che ti puoi permettere è l'Italia che si blocca, diciamo, a maggio-giugno, e sia come danno economico per i singoli sia come danno economico per l'intero paese. Professor De Aglio, lei oggi è arrivato a ipotizzare uno sdoppiamento di Alitalia. Un minuto di pazienza e poi ci racconta, perché qua la gente la vorrebbe chiudere in alcuni casi, d'Italia ne vorrebbe addirittura due. Allora vediamo di capire in che senso dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora, Alitalia, professor De Aglio, perché, per carità, qualcuno mi chiede, ma dura da più tempo Beautiful o il tormentone di Alitalia? Guardate ragazzi, ne abbiamo parlato decine di volte, c'è una storia anche su cui molto si è scritto. Perché due Alitalie, De Aglio? Io credo questo, faccio beneficio di inventario all'attuale dirigenza Alitalia, ammettiamo che abbiano risolto tutte le situazioni interne di privilegi, di inefficienze, eccetera. Rimane il fatto che il disegno dell'azienda è un disegno che non sta in piedi nel mondo moderno. È come far viaggiare un'auto degli anni 50 nel traffico di oggi. È tutto che non funziona, funziona un po' male tutto quanto, alla fine la macchina tende a collassare. È quello che succede con Alitalia, che ha una testa molto grossa su un corpo che è diventato sempre più piccolo, che dovrebbe essere snello, ma non riesce a essere snello come i concorrenti. Quindi cerchiamo di togliere queste storture del disegno. E si vede che queste storture del disegno hanno il loro punto centrale nei cosiddetti hub. Cioè una compagnia aerea deve avere uno hub dove gli aerei ritornano, si cambiano gli equipaggi, si fanno i rifornimenti e dal quale possono incrociarsi i voli. Il fatto è che l'Alitalia dovrebbe avere, per la geografia italiana, se vuole essere la linea aerea di tutto il paese, due hub, uno a Milano e uno a Roma. E di fatto ha fatto la scelta di avere Roma e ha lasciato perdere Milano. In questo modo, tra l'altro, mettiamoci dentro anche i Frecciarossa, che hanno praticamente fatto una concorrenza vincente al traffico aereo sulla tratta Milano-Roma, che era quella su cui l'Italia guadagnava, e ci si trova che la situazione non è più tenibile. Quindi cerchiamo di progettare due cose diverse, una sostanzialmente basata su Milano e una su Roma. Naturalmente ci saranno delle sovrapposizioni su alcune linee, però sostanzialmente sono linee più piccole, più snelle, in cui diciamo il costo degli uffici, della dirigenza, eccetera, è molto inferiore a quello che è in una linea che risale agli anni 60. Quindi lei dice, insomma, sdoppiare anche per il tipo di rotte e quant'altro, ma questo paese ha bisogno però di un'ex compagnia di bandiera a questo punto? O uno mi può dire, nell'economia globalizzata tanto ci sono già i colossi che reggono, Emirates, anche Etihad, insomma, Emirates ed altri, per cui non ce la fai? Ma io credo che se guardiamo un'economia globale che possa espandersi pacificamente, quindi ammettiamo che gli attuali conflitti si risolvano bene, l'Europa tenderà a essere abbastanza marginalizzata. È chiaro che il cuore del traffico aereo si sposta, come già succede in posti come il Golfo, che hanno i due vantaggi: una centralità geografica rispetto ai mercati nuovi, quindi la Cina è relativamente vicina, persino l'Australia, per tutto quanto, e dall'altra parte hanno anche il carburante che gli costa quasi niente. Vabbè, staremo a vedere. Lei è fiducioso comunque per salutare De Aglio su questa trattativa o secondo lei si darà solo dell'altro ossigeno così per mantenere? Io temo questo, temo che l'ossigeno bisognerà darlo, perché è vero quello che dicevate prima, cioè la stagione turistica e tutto quanto, quindi se parliamo di questioni di mesi non possiamo non tenere in vita il carrozzone. Però dovremmo al tempo stesso, e qui sono... non so bene se essere fiducioso, perché bisognerebbe capire cosa ne pensano le forze politiche, che fino adesso hanno rigorosamente omesso qualunque idea nuova, quindi continuano a occuparsi di dare le mance elettorali e non di risolvere questi problemi. Grazie, grazie anche a Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino. Adesso andiamo invece sulla borsa che ha un po' ripreso rispetto al calo dopo l'apertura di Wall Street, perché insomma Wall Street non ha certo festeggiato il blocco, la bocciatura dell'Obamacare. Allora, Wall Street perde lo 0,40%, Parigi ha perso lo 0,60%, Francoforte lo 0,60%, Parigi ha chiuso invariata alla fine, Londra meno 0,60%, Milano meno 0,32%, l'euro invece si conferma vicino a quota 1,09, 1,08 e 90, Buzzi Unice meno 3,20, ST Micro Electronics meno 2,90, Case New Holland meno 2,70, Tenaris meno 2,20, Saipem meno 2%, i peggiori tra quelli a maggiore capitalizzazione, il migliore Ferrari più 2,90, Telecom più 1,70, Recordati più 1,40 come Terna, l'1% lo guadagna Banca Mediolanum. Il commento dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. :18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alle banche, l'articolo uscito nel fine settimana del Sole 24 Ore in cui si punta l'attenzione su 114 banche, per lo più BCC e casse rurali, che avrebbero criteri nel rapporto tra sofferenze, non performing loans e invece patrimonio netto tangibile preoccupanti. Prima di tutto la borsa, però, Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, giornata che poteva prendere anche una piega più negativa, poi hanno un po' corretto tutte le borse. Scetticismo sulla bocciatura di Trump all'Obamacare. Scusatemi per la qualità della voce. Dow Jones meno 0,20, Francoforte meno 0,60, Parigi invariata. Andiamo sui titoli. Ferrari, vabbè, festeggia la vittoria in tutti i sensi del Gran Premio. Telecom Italia più 1,70. Sì, Ferrari è stato appunto il migliore proprio in seguito alla vittoria nel Gran Premio d'Australia. Invece per quanto riguarda Telecom Italia, il titolo è premiato dal giudizio degli analisti di Macquarie che commentano positivamente l'andamento dei progetti del gruppo per la fibra ottica in Italia e soprattutto sottolineano che nei confronti del suo principale concorrente che è Enel Open Fiber, Telecom mantiene un vantaggio competitivo significativo da cui potrà trarre giovamento anche nei prossimi mesi. Gli investitori hanno quindi premiato il titolo che è salito alla fine dell'1,68%. Ancora invece sul fronte opposto un po' di pressione su Buzzi Unici è meno 3,27% ed STMicroelectronics meno 2,90% e anche Case New Holland. Nel caso di Buzzi e Case New Holland, lì forse c'è anche una preoccupazione sul dollaro in indebolimento? Sì, sicuramente oggi sono stati venduti i titoli più esposti nei confronti del dollaro, il biglietto verde è sceso al momento ai minimi da circa l'11 novembre nei confronti dell'euro proprio dopo lo stop a Trump sulla riforma sanitaria, quindi Buzzi Unici e CNH ne hanno sofferto male, come dicevi tu, anche se di Microelectronics, che in questo caso ha chiuso a meno 2,91%, sono i tre titoli peggiori del FTSE MIB. Ancora oggi Cairo Communication ha comunicato i dati, ha chiuso il 2016 con un utile di pertenenza del gruppo per 20 milioni, quindi sale quasi raddoppia rispetto agli 11 milioni del 2015, dividendo di 5 centesimi per azione. Male Italian Independent, che va male anche in borsa, meno 4,30%, ha perso 12 milioni nel 2016 e poi realizzi su due titoli, uno ci riguarda, il Sole 24 Ore, meno 8,90%, era cresciuto moltissimo nelle settimane precedenti, e anche RCS Media Group, Rizzoli, Corriere della Sera, che era cresciuto molto dopo il ritorno all'utile, meno 3,33%, Stefanelle più 40%, Zucchi più 13%, su Stefanelle abbiamo visto, e poi c'è H-Farm più 11,60%. Chiudiamo su Stefanelle, abbiamo visto anche il tentativo di un rilancio complessivo del marchio del gruppo. Sì, esattamente, Stefanelle proprio dopo l'accordo sulla ristrutturazione del debito del gruppo dell'abbigliamento, che quindi naturalmente dà fiato alla società e la possibilità di un rilancio della società, il titolo ha guadagnato il 39,47%, risultando di gran lunga il migliore, seguito come dicevi tu proprio anche da Zucchi, anche qui un rialzo a due cifre più 13%. I peggiori appunto Biancamano meno 9% e Rolls meno 6,70%. Grazie a Paolo Paronetto, grazie Radio Corriere del Sole 24 Ore. E noi restiamo in tema di banche, molte però delle banche di cui stiamo per parlare non sono quotate, mi riferisco alle BCC, alle casse artigiane. Perché? Perché senza creare allarmismi, ma mettendo in evidenza alcuni elementi di criticità, il Sole 24 Ore, riprendendo l'ufficio studi Mediobanca, la ricerca dell'ufficio studi Mediobanca, segnala come sono ben 114 gli istituti di credito, uno su 5, in cui il peso dei crediti malati, NPL, è tale da far accendere un semaforo rosso. Perché? Perché supera il valore del patrimonio netto tangibile. Questo indice, per chi è un addetto ai lavori, si chiama Texas Ratio. Quando si supera il 100%, la banca insomma inizia a scricchiolare. A quel punto o fai un aumento di capitale o ti fai comprare una banca più sana. Oppure c'è una terza possibilità, cerchi di vendere sul mercato le sofferenze, e lì sappiamo che la trattativa è con i cosiddetti fondi avvoltoio, loro puntano, se tu hai una sofferenza da 100 euro, c'è qualcuno che non ti ritornerà i 100 euro di prestito, tu puoi in bilancio magari ce l'hai ancora iscritta a 40 euro 45 euro, cioè speri di averne almeno 45 su 100, il fondo ti dice: te la prendo io questa sofferenza, però me la dai a 20 euro, e cerca di guadagnare sulla differenza di quanto riuscirà a recuperare. Magari la prende a 20 euro, se riesce a recuperare 5 euro, ha chiaramente un vantaggio del 25%. Lo dico per farci capire da tutti. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, dicevo che insomma la lista che tu fai, insomma, si va dalla banca di credito cooperativo di Teramo, che ha crediti malati netti, quindi dopo le svalutazioni con le perdite già effettuate, pari a 8 volte il capitale. C'è poi la banca di, dopo la banca di Teramo, la Cassa di risparmio di Cesena, con NPL che valgono 6 volte il capitale. E tra l'altro, questo è per dare i nomi principali, e poi c'è tutto un insieme di banche anche molto piccole. Quali sono delle tre possibilità quelle che si stanno realizzando più concretamente? Quindi, cioè, o aumenti il capitale, o ti fai comprare da una banca più sana, o cerchi di vendere e liberarti di queste sofferenze? Beh, la strada principale l'ha fatta la banca di Teramo, insostenibile, è stata salvata da una BCC con sorella che sta in Abruzzo, e che si è comprata la banca di Teramo incorporandola. Sono tutte per lo più banche piccole, non quotate, BCC o casse rurali. Oddio, nell'elenco in realtà ci sono tutte le banche in crisi italiane, MPS, La Vicenza, Veneto Banca, Carige, cioè tutte le banche, le grandi banche sono tutte sopra il 100%, sono il 200%. L'elenco però dimostra che le case di crisi grosse, conclamate, le conosciamo tutti. Il problema è che c'è un sommerso, sono le banche vigilate da Banca d'Italia, non dalla BCE, sono le banche del territorio, quelle piccoline, e che hanno appunto questi crediti malati, tanto netti, quindi sono già stati svalutati, che superano ampiamente il capitale. E lì è un problema, nel senso, ovviamente non si fa allarmismo, però se in quell'elenco figurano MPS, Vicenza, Veneto e Carige, vuol dire che la situazione non è serena, nel senso che, ripeto, o aumenti il capitale, bisogna vedere se qualcuno ti vuole dare i soldi, perché poi è gente che spesso ha in mano le azioni, essendo non quotate, a prezzi, come abbiamo visto per Vicenza e Veneto, che non sono più realistici, per cui gli chiede i soldi su prezzi gonfiati. O ti fai salvare da qualcuno, nel caso dei BCC esiste il fondo di garanzia volontario, cioè di fatto le BCC si autosalvano non chiedendo soldi allo Stato, nel senso che c'è un fondo di garanzia che rileva le sofferenze, si fa la fusione per incorporazione, come nel caso di Teramo con la banca che se l'è comprata, no? Cesena, ad esempio, in questo momento è sotto i riflettori, come Rimini e San Miniato, tutte e tre dentro l'elenco, alle prime posizioni. E il fondo di risoluzione ha detto: io non metto più capitale, sono disposto a comprarmi le sofferenze, ma capitale non lo metto. E sono tutte situazioni di crisi, come dire, profonde, insomma, esplosa negli ultimi mesi, se non anni. È una tabella che serve a guardare la propria banca, e quindi l'avvertenza è: quando il famoso Texas Ratio viene dalla crisi bancaria delle banche texane, e un analista decise di coniare questo termine andando a vedere perché fallivano quelle prese delle sofferenze, ecco, quell'indice lì va guardato, e esorto anche i clienti, si può fare dai bilanci, uno prende i crediti malati netti, va a vedere il livello del patrimonio netto, fa un rapporto e scopre se la sua banca può vivere sonni tranquilli o c'è qualche problema all'orizzonte. E quindi attenzione anche al cosiddetto Texas Ratio. Da questo punto di vista, Fabio, qualcuno mi chiede: ma chi fa il lavoro di comprare sofferenze? Beh, per esempio, Banca IFIS oggi ha acquisito altri 2 portafogli di sofferenze bancarie per 573 milioni di euro. E a questo punto il totale dei crediti non performing loans, quindi sofferenze, gestiti da Banca IFIS al 28 febbraio ammontava a quasi 10 miliardi di euro. Sono operatori in Italia, i più attivi sono Fortress, che è un grande operatore americano, c'è il CERVE che fa questo lavoro, c'è IFIS, insomma ci sono una serie di operatori specializzati. Ovviamente, come dicevi tu, se uno va a comprarsi le sofferenze da un compratore, tende a comprare al prezzo più basso possibile, poi sta a lui andare a recuperare quel credito. Ci vogliono in Italia dai 5, 6 agli 8 anni, bisogna andare casa per casa, andarli, come dire, a metterli in un database, vedere quelli recuperabili e quelli da perdere, e quindi è un lavoro difficile, pesante. Ovviamente chi compra dice: tu ce l'hai in bilancio a 40, io ti offro 20, prendi o lasciare. Cioè, manca un mercato delle sofferenze, manca un compratore pubblico delle sofferenze, questo è il tema. Atlante doveva fare quel mestiere lì, ma come abbiamo visto i soldi per lo più li ha dovuti usare per ricapitalizzare le banche venete, e dovrà farlo anche in questo secondo giro. E quindi il vero tema è che manca un compratore, come dire, pubblico, e pubblico che possa tenere il prezzo un po' più alto, in modo da non svalutare ulteriormente queste sofferenze che tu hai in bilancio, perché se le hai a 40 euro e poi le devi cedere a 25 o a 20, sei obbligato. La banca tende a tenerle in pancia, però più le tieni in pancia più c'è il rischio che creino perdite, perché cosa succede con le sofferenze? Spieghiamo il meccanismo in modo molto semplice: la sofferenza va comunque svalutata, e quindi molte di quelle banche lì hanno i ricavi che vengono completamente mangiati dalla svalutazione delle sofferenze. Vuol dire che la banca chiude in perdita matematicamente, quindi si accumuli perdite e ti mangi il patrimonio. Quindi quel rapporto lì, anziché diminuire, tende ad aumentare, perché ogni volta che fai perdite diminuisce il patrimonio e il rapporto sale, e quindi è una sorta di spirale perversa. Allora, vorrei due aggiornamenti, ma veramente aggiornamenti. Uno sul fronte, mentre sul fronte del Veneto ho visto che il commissario Nui ha detto: beh, adesso la decisione della Commissione Europea, il piano include anche la possibilità di una fusione delle due Venete. Sappiamo che lì bisogna stare attenti, perché mentre nel caso del Monte dei Paschi c'è la continuità, come abbiamo spiegato molte volte, nel caso delle due Venete è più, la spiego male ma per farmi capire, è più forte il rischio che Bruxelles ci dia degli aiuti, ci accusi di aiuti di Stato. Sì, perché c'è un tema legato alla solvibilità, si saprà domani sera c'è l'ennesima, si chiude credo definitivamente la seconda proroga agli azionisti che vogliono aderire all'offerta di transazione. Sono quegli azionisti a cui verranno date il 15% del valore dell'azione, e che però rinunciano a fare cause legali alla banca. Perché quello è importante, perché se tu invece hai delle cause legali, la banca deve accantonare i soldi. E poi c'è il problema della non solvibilità, perché Monte dei Paschi ha potuto chiedere questo aiuto, ma era una banca solvibile. Le due Venete in questo momento non lo sono. Come elemento flash invece su Monte dei Paschi, mi sembra novità, oggi ho visto Nui di nuovo. Vedo che si prende molto tempo. Esatto, nel senso che, cioè, il problema vero è che uno si aspettava una soluzione rapida. Qui vedo che tutto io ho capito entro fine febbraio, inizio marzo. Vabbè, si parla a questo punto di aprile, con un ingresso dello Stato ormai, come dire, conclamato. Nel senso, quello è di, e invece su San Marino, San Marino per carità è una repubblica a parte, ma quanto alto è il rischio che anche noi dobbiamo come Italia intervenire a salvare, perché ci sono aumenti di capitale grazie a operazioni sospette, senza le quali la banca non avrebbe requisiti per operare, 100 milioni di euro in contanti distribuiti agli sportelli solo fra luglio 2015 e primavera 2016, senza plausibili motivazioni tecniche, crediti per centinaia di milioni di concessi in buona parte a residenti in Italia, inclusi soggetti legati a partiti politici, fidi più facili rispetto alle deliberazioni della banca, condizioni economiche diverse da quelle decise dagli organi, insomma un verminaio. Un verminaio, perché San Marino confina con la Romagna. E tra l'altro, secondo il Fondo Monetario Internazionale, avrebbe bisogno il sistema bancario tra i 400 e i 450 milioni di euro, cioè un quarto del suo PIL, per salvare le banche. Prego, Fabio. Ti do un esempio, era un'inchiesta, andava avanti da molto tempo, oggi l'ha rivelata il Corriere, ma altri colleghi avevano scritto, anche il Sole se ne era occupato. San Marino, il livello dei crediti deteriorati, delle sofferenze, se in Italia è il 16%, San Marino era il 35%, quindi avevamo una Repubblica di San Marino che da anni aveva il doppio delle sofferenze del sistema italiano. Quindi erano banche completamente, come dire, tecnicamente del tutto fallite. È stato nominato un nuovo governatore centrale della Banca Centrale di San Marino e ha provato, come dire, a fare un po' di pulizia. Ecco, il risultato è quello lì, che si è scoperchiato il vaso di Pandora e si è visto che quel sistema era profondamente malato. Ho l'impressione abbia fatto operazioni su cui i clienti delle banche italiane non potevano più operare, cioè chi in Italia non era meritevole di credito. Andava a San Marino, un paradiso, un piccolo paradiso fiscale, non fiscale, ma un paradiso bancario. Nel ringraziarti, voglio citare però una mail che hanno scritto in tempo reale da Federcasse, quindi dal mondo del BCC, sottolineando come il rapporto, diciamo, di Mediobanca fa riferimento ai dati di bilancio di ormai 2 anni fa, bilancio 2015, e che le BCC sono state oggetto di un'importante riforma, per carità. Il 64% dei crediti deteriorati dei BCC era coperto da garanzie reali, a fronte del 51% osservato dall'industria bancaria, con un total capital ratio del 17% e il CET al 17% anch'esso. Grazie per la precisazione a Federcasse, grazie anche a Fabio Pavesi. Andiamo sul traffico e poi Obamacare, la novità, molti dicono la scusa con cui la borsa oggi è andata a vendere mentre l'euro si rafforzava nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, la riforma Trump non passa perché 30 deputati contro, una quindicina di repubblicani rinati per il no hanno fatto fallire la riforma sanitaria targata GOP, che sembrava comunque già morta in partenza, fu già bocciata dall'organismo bipartisan del Congresso. Perché? Perché secondo il Congressional Budget Office 24 milioni di americani avrebbero perso la copertura sanitaria, portando a 56 milioni il totale di americani senza copertura sanitaria nel 2026. Mario Platero da New York, buonasera. Eccoci Sebastiano. Beh sì, direi hai riassunto. Ecco, come mai, la domanda è molto semplice, ma come mai Trump è andato comunque, tra virgolette, a schiantarsi? O pensava comunque di farcela con qualche cambio di orientamento politico, perché sennò era abbastanza nei numeri che avrebbe dovuto ritirare allora la proposta? Allora sì, Trump pensava di farcela perché ricattava l'opposizione all'interno del partito, l'opposizione sia dei moderati che dei conservatori, dicendo attenzione che se voi non votate questa legge, che è la nostra legge e che potremo controllarla, resta Obamacare. E quindi una promessa elettorale chiave che abbiamo fatto tutti noi, e noi come partito non saremmo in grado di mantenerla. Come partito in controllo di Camera, Senato e Casa Bianca. Per cui è stato un disastro politico, nel senso che se tu nel momento in cui hai il controllo del Parlamento e del potere esecutivo non riesce a coagulare una maggioranza attorno a una proposta di legge chiave come quella, vuol dire che ci sono dei problemi seri. Quali sono i problemi? I conservatori estremi dicevano no, non se ne parla, non ci vuole un progetto, diciamo, di assistenza sanitaria. Torniamo a come eravamo prima, tutti liberi e ognuno fa quello che vuole, e quindi questi 24 milioni, benissimo, ma che siano anche 30. Noi loro sono assolutamente degli ultra molto liberisti e non vogliono che ci sia alcun intervento dello Stato né diretto né indiretto per cose di questo genere. I moderati invece erano preoccupati dal fatto che questo progetto, si proprio per accontentare un pochino questi ultra liberisti, si spostasse troppo al di fuori di garanzie di protezione, di servizi medici e così via e così via. Quindi e Trump è rimasto preso fra due fuochi, e devo dire per lui è stato uno scontro con la realtà della politica. Cioè una cosa è comandare, essere il capo di un'azienda e dire con un sì o con un no si fa questo, si fa quello e la gente scatta, e la politica è un'altra cosa. Io spero che Donald Trump si sia reso conto che la realtà con cui si deve confrontare è molto diversa rispetto a quella che forse lui immaginava, perché questa per lui è una sconfitta bruciante. Per Paul Ryan, il presidente della Camera, che è un uomo di calibro molto molto elevato, è stata una sconfitta bruciante. Il partito ne esce a pezzi. Adesso qual è la loro speranza? Beh, da una parte la riforma fiscale, e lì dovrebbero, si pensa, trovarsi d'accordo, a meno che di nuovo questo gruppo di ultra di 33 persone, 33 deputati, che fanno poi capo molti di loro ai fratelli Koch, che sono ultraliberisti, non decida di fare ostruzionismo anche su quello, ma non credo, perché insomma la riforma fiscale è l'interesse di tutti, e allora lì sì che avremmo un crollo della borsa, perché vedi la borsa oggi è preoccupata perché dice ma se è andata così sulla sanità magari avremo una riforma sanitaria e una riforma fiscale meno interessante di quella che avevamo già scontato nei prezzi di borsa, capisci? L'altra minaccia indiretta di Trump è quella di dire beh, sapete che c'è di nuovo, se voi non volete lavorare con me allora io lavorerò con i democratici, soprattutto per il progetto di riforma infrastrutturale. Il momento è confuso, oggi devo dire è una giornata in cui parlano in pochi, è una giornata molto di transizione. Domani ci sarà un ordine esecutivo di Trump, un'altra provocazione, perché con questo ordine esecutivo eliminerà il progetto di legge ambientale con cui Barack Obama aveva introdotto una serie di normative che andavano anche a rispondere agli accordi di Parigi sull'ambiente, e lui le cancellerà con un colpo di spugna, quindi anche questo domani farà molto polemica. La situazione resta tesa e staremo a vedere, ma sicuramente è un momento in cui tutti si stanno raggruppando per capire che succede. I più felici in questo momento sono i democratici, perché sono certo. Resi conto che c'è una base politica nel paese che risponde a quelle che sono le loro istanze. E forse anche che l'approccio, come dicevamo inizialmente, di Trump su questa cosa è stato o eccessivamente ottimista o un po' dilettantista, nel senso che poi si è accorto di non avere la maggioranza nel suo partito. Sappiamo che è un partito che l'ha sempre visto con molto sospetto in molte parti, ma insomma tu hai spiegato molto bene che cosa è successo e anche la sopravvalutazione o sottovalutazione, se vogliamo dire, delle resistenze interne. Grazie anche a Mario Pratero in collegamento con noi da New York, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.